fino a quella che io andò, al bagno fino a quella che andò, uno manciare caio, uno manciare caio. Por menos precio se vende, por menos precio se vende, porque perdió su valor, porque perdió su valor.